La credibilità si costruisce nel tempo e si rinforza giorno dopo giorno con i fatti. L'anima ardente di passione che brucia la pelle senza bruciare, che brucia tutto ciò che tocca, che brucia il cuore con passione dello stesso. Storia di favela, dominanti cieli, soli eterni. Che bruciano la pelle senza bruciare, l'anima ardente di passione, come una donna nuda, come una donna ciondola del cielo e dell'anima. L'anima ardente di passione, che brucia la pelle senza bruciare, che brucia tutto ciò che tocca, che brucia il cuore con passione e dello stesso. Dominanti cieli, soli eterni, gli occhi lucidi e l'anima ancora di più, gli occhi lucidi riflettendo all'interno, gli occhi lucidi mostrando la verità senza bugie, senza nascondere il sentimento per non parlare la verità, gli occhi lucidi con lacrime di sangue, gli occhi lucidi con lacrime di splendore, dominanti cieli, soli eterni, che bruciano la pelle senza bruciare, l'anima ardente di passione, come una donna nuda, come una donna ciondola del cielo e dell'anima. L'anima ardente di passione, che brucia la pelle senza bruciare, che brucia tutto ciò che tocca, che brucia il cuore, con passione e dello stesso Cesare.